l'acciaio inossidabile sempre piazzata su, perché dal terrazzo dove c'ho la scaletta c'è praticamente la torre del lettore dell'ascensore, no? E quindi io mi collego lì sempre, metto lì. Chi sui giacimenti ha il mato a virus? E chi viene bene a Falattino? E chi non può imbagliare? Se non vai in un mazzetto, non è buono il staff in chi viene. Vedi, la base dell'ascensore che ci stuzza, beh, ci mancherebbe altro. Cazzo lì già, quando quando ho messo le staffe io, a vedersi, se ne avrò lunga, vabbè, era l'ultimo piano. Bene, tessellate, ma staffe però, io lì non risparmio, non che te la puoi avere la ginara antenna. Immagini, io non c'ho un'antenna con un tirante, mai messo tirante. Pali buoni e staffe buone, una volta che sta fatta a muro, il palo è buono, l'antenna tanto flette perché deve flettere, però stai pur cerca di farmi cadere. La stessa cosa l'ho fatta via a Pasqua. Comprato un palo di quelli 60 euro mi ha costato da fusare. L'ha fatto arrivare Antonello da fuori. E sono i pali che usano per mettere nei ripetitori. L'ho preso ed è 6 metri. E 2 pollici il piantone, sino 1 pollice e un quarto. Allora non tu pensi, mi la vedi lunga, che è poco pesante. Beh, ci credo. Ci credo, sono pali buoni, devono vendere anche una certa portata. No, gli assicuro che pali qui. E poi metti un'antenna, io addirittura su quel palo, vabbè, c'era la mantova, e poi staffato la mantova con quelle staffe palo, c'era anche l'antenna UHF, che sempre, vabbè, è un'antenna leggera che però flette moltissimo, quindi il colpo, la frustata gli era anche lì col vento, mai avuto problemi, mai. Invece adesso ho fatto 3 pali per 3 antenne, tutto separato, non attacco più ai pali, gli stessi pali. Ho fatto tutto un'antenna ogni palo, un palo ogni antenna. E poi vabbè, i poli quelli sono a parte, ma quelli sono filari, quindi no, non succede niente. Avanti, Tore. Vabbè, quei pali sono buoni, sono quelli consigliati per un'antenna così. Antonello, va a dire che siamo alati, e che ci portiamo Antonello, che è bravo, là. Sono bravo antennista, Antonello. Io lo so, che è antennista, ha qualcosa già messa, infatti quando cioè, ti dispiace, chiedono qualcosa. Questo non abbiamo fatto l'Ipsia, no? Sì, diplomato all'Ipsia, l'Inapri si era diplomato lui. All'Inapri, ma c'è, io conosco Antonio più di 30 anni perché lavoravo ancora con i suoceri in via Sbruni, quindi abbiamo fatto un sacco di lavori per fusare lui, lo conosco più di 30 anni, quindi era sempre lì, perciò io penso sia da ragazzino lì. È grande quanto me, c'è 50 anni Antonello. Positivus. Poi ci sono le due la calotte là, o la figlia. Allora non c'è più vino. Infatti sta sempre trombando in Brasile. C'ha un'azienda di cavi elettrici in Brasile. È sempre lì lui. Ma già viene Vittorio, io do del tuyo. Già viene, ci siamo visti da poco. Questa è la volta ci siamo visti, o a luglio mi pare. Prima che andassero in ferie, che ero andato a ordinare il cavo, ma l'ho ordinato lui lo stesso. Il cavo che ho fatto qua in discesa, ne ho preso 2 matasse da 100 metri più una da 50 metri, che me l'ha data lui già usata, praticamente avanzata dalla matassa da 100. E mi è costato un capitale. Ho speso 250 euro in cavo io qua, non puoi usare cavi diversi, tanto lui e la Camille, che è un capo a bassa perita, doppia calza con centrale in rame, il rame rigido però, non quello spiralato, il rame rigido, le macchinolate. Per attaccare i piedi lo devi fare in due, li ho fatti tutti con Franco, perché uno deve mantenere il capo con la pizza a scatto, l'altro deve avvitare bene, una volta è preparato bene il capo per entrare dentro la calza, se non ce la fai da solo. E poi proprio un goccettino di stagno per mantenere il centrale, non ce ne vuole molto, ma sono eterni, è un capo eterno. Io ne avevo, l'avevo messo, che qui si chiama prima H100 se ti ricordi, poi hanno cambiato la sigla a Camille perché hanno fatto doppia calza, ma il primo che avevo preso c'era 23 anni qua sul tetto, quando l'ho tolto di gomma non ce n'era più, era praticamente quasi sciolto dal sole, ma l'interno era nuovo, nuovo, nuovo, rotto. No, non ce l'ho presente col capo, poi io uso, qui c'ho tutto RC213, ma non mi sa, non so se è buono quello, per quello lo uso, per se è buono. Questo è simile al 213, i 213 non fanno più, avevano fatto l'H100 e avevano eliminato il 213, poi questo H100 è diventato H1000, però è morbido, capito? Il 213 è molto rigido, quindi non piega, se c'è strumenti, un casino, farlo passare dietro il radio. Questo è come un cavo normale, è un RG58, chiaramente risulta più grosso, però è morbido, molto molto morbido, è eccezionale, guarda, è eccezionale. Me l'ha fatto vedere proprio Antonello un giorno che era andato a vedere alcune cose e mi ha detto guarda che stiamo trattando questo cavo se ti interessa, è favoloso. C'era Vittorio, ma mi ha detto guarda che noi lo usiamo per fare lavori veramente molto molto cioè importanti, capito? Sono cavi a bassa peso, ha fatto vedere tutto e praticamente costava 4,50 euro al metro e a me me l'ha fatto a 2,50 euro. In aggiubiliato 250 euro, un capitale mi è costato e purtroppo sono sceso giù, prima ero nono piano, adesso sono al secondo e quindi ho dovuto canalizzare tutto, fare un lavoro, guarda che non viene bene a dirlo, mio Antonio l'ha visto, Falchetto, non vedi niente, non vedi un cavo, non vedi niente, però l'ho dovuto fare perché altrimenti con l'andare del tempo poi ti si rovinano tutti i cavi ed è un casino, non esci più, infatti non c'ho perdite da nessuna parte, rientro in DRF, nulla, posso io, c'ho tutte le radio accese, non si sente un fischio, niente, nulla, non, è un cavo qua, troppo interessante. È buono, è buono, col gusto no, non è che l'abbia pagato molto, ci sono andato a metà prezzo. Vabbè, ho preso parecchi metraggi, non mai 150 metri ne ho preso, allora. No, no, ne ho preso due matasse da 100 metri, due matasse, io ho tre calate da 50 metri l'una, ecco, 50 metri l'una, quindi sono già 150 metri e tre antenne, poi ho la calata dei 6 metri e sono altre 45 metri, perché vabbè il dipolo rimane un pochino più qua avanti, quindi non avendo qualificazione ho recuperato un 5-6 metri di cavo. E poi c'ho l'altro della C5RV, sempre di polo, e ce ne saranno lo stesso 45 metri. Quindi ti fai i conti, sono 5x3, 15, sono già 150, e altre 100 sono 250 metri. È un casino, però ho finito, va bene così, ho chiuso tutto, tanto l'altro giorno mi ha piovuto, mi sono facciato la finestra, il tappo della canaletta leggermente, però ha piovuto molto, è un pelino pelino, fa qualche gocciolina, come adesso la prima giornata di sole che fa, gli usi di cone della Vasconi col pennellino, tric, e ve lo tappo su Bucareto, ci messe proprio una soffiatura di silicone lì, ho visto una gocciolina, però non fa niente, non è molto importante, intanto rimane esterna, quella interna invece è perfetta. Camparoccio, infatti devi metterlo per giornata di sole, si scalda tutto, la umidità si prende e si mette. Sì, sì, sì. Ho visto proprio, ma è proprio nel pluviale nella camera esterna, capito? Non è in quella della finestra, quella finestra è perfetta. Ho visto asciutta bella, senza problemi. Quella che è sotto la finestra è a posto. Quella che invece scende in facciata, dove entrano i cavi, evidentemente c'è qualche soffiatina proprio di silicone che non è penetrato bene nella giuntura, quindi, ma non è importante, è esterno, quello non mi interessa. Ok, Maure, riprenditela. Niente, io mi c'è tanto che me la squaglia l'anna. E domani mattina alle 4, dai. Così mi curico, mi riposo bene e domani mattina mi alzo alle 4. Marco? Registrato, va bene Mauro, d'accordissimo. Grazie alla compagnia di oggi, grazie di tutto. Adesso già sia a posto, mi raccomando, domani completami quella cosa lì, poi ci sentiamo, ok? Sì, K. E l'ho completo perché intanto dopo non ci voglio più salire, perché se è lì, guarda che mi ha toccato, si muoveva un pochettino, sono salito a controllarlo per sicurezza, ci salgo quella roba lì e era finissima, così almeno non ci saremo più dopo, dai. No, se no si stufa quell'uomo, alla fine hai cazzo a perdere la pazienza davvero, non puoi mangiare sempre a casa sua e rompere le balle, completa domani con Tonino, intanto è una stronzata, ne metti quel con tassello chimico all'interno sotto, lo lasci asciugare, reinserisci il tubo, ti rifai a posto, l'antenna è più che a posto, tirati su quel tubo ed è finita, stringi bene le staffe in modo che non flettano, è tutto fatto, va bene. Ciao Mauro, buonanotte, saluti a casa e ci sentiamo domani. Avanti il break, con le scuse degli amici, facciamo passare il break. Ehi, sono Leoncino, dai. Salutone a tutti quanti i componenti della ruota, dai. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato. Avanti Antonio, per i saluti a Leoncino e a Mauro, cambio. Grazie, ne approfitto a salutare Mauro, fate la buona Mauro, dai. Buon riposo con tutto e ce ne ascoltiamo tutta domani se coincide. Va bene, ciao Leoncino di nuovo, ben entrato, ben ascoltato. E a tutti quanti, dai, cosa volevo dire? Vabbè, riprendetevela tutta, dai. Va bene, buonanotte. Vabbè, io, Claudio, con la scusa di salire a controllare il tutto con Tonino, dico, no, ho portato questo, se nel caso c'è problema, dico, rimettiamo questa roba dentro. Ha visto? E ci sentiamo, ci aggiorniamo domani sera, ciao. Buonanotte, saluti a tutti. Ciao Mauro, ciao, buonanotte, alle prossime, avanti Tore. Ma ciao Mauro, buonanotte, alle prossime, ci vediamo domani magari, ciao. Ma ciao Mauro, buonanotte, con tutto, dai, grazie, ce ne ascoltiamo domani. Saluto a te e quello della famiglia. Avanti così, mi sa che anch'io sono al culmine. E aspettate 10 minuti e poi ce ne andiamo. A me Leonci. E me Claudi. Tutto a posto. Ehi, ero qua al circolo a mio fratello, così facendosi una maglietta. Ehi, anche quella ci vuole a passare il tempo, Giuseppe. Anche quella ci vuole, se no cosa fai? Ammazzare il tempo, non manco issa. Cosa vuoi fare? Adesso ce ne rientriamo a casa, facciamo un po' di sosta e ce ne andiamo tutti a dormire. Era lui, sono stato presto anch'io oggi, ma ci ho bappato 400 km, poi sono andato a dare una mano a Mauro per l'antenna e siamo qua, cenato, adesso fa un po' 10 minuti. Saremo tutto e ci andiamo a nanna, così domani siamo tutti belli freschi, vero Tore? Tutti belli freschi, non si recupera mai, capito? Non c'era più vicino prima, c'era Olivia, adesso il cazzo, già recuperi. Cosa recuperi, cazzo? Ma cosa recuperi? Più dormi, più sonno c'hai. Trova con un uovo, c'è più su una grande, cazzo, boh. È sempre sonno c'ho, cazzo. Porca miseria, boh. A vero, me. Più grandi siamo di età e più stanchi sempre siamo. Ma senza fare nulla, sembra che sono tutto il giorno a palle piccolo, ho fatto un cazzo. È il tuo dire. Tanto io sono anche giovane, un cazzo è mi ricordo, che io ero subito, no? Tipo andavo uscivo, andavo alla discoteca, rientravo, andavo via, per quattro, cazzo, ma ah, uia, uia, uia. Se io guarda, sono, quando sono di turno, riesco alle 6, no? Faccio i primi due giri di controllo qua vicino, perché c'ho un ascoltatore in via Milano, e l'altro sulla Serra Secca, e poi alle 7 mi vedo con Antonio. Cazzo, quando mi vedo con Antonio sono ancora dormito, no, Antonio? Io sono dormito, là. Insomma, diciamo che sono morto tutta la sera. No, cazzo, ho avuto un po' cigarato, ma poi mi sono cominciato che mi ha fumato un cannone. Ecco, ti metti a tornare alle 4:30, va a riuscire, non lo so io. Tu muto, ma tu pompa, cazzo, ti ho visto l'altro giorno, come cazzo fai a camminare con gli occhi chiusi, non lo so io. Quella perché ogni tanto quando vado al bar mi invitano e per non pagare faccio finta di non vedere. Brutto pedonaro che non c'è altro, brutto pedonaro che non c'è altro. Ah, Alessio, buon pugno, la matta te ne scelta. Alessio, chi è? E chi è? Alessio, buon pugno. Ah, già, me. Sì, dove sei venuto a quest'ora? Provo a rientrare, so vai, ho dovuto fare lo sguardo di Piombino stasera, perché arrivata alle 7:30 la nave, la bagaglia sua. Io sono passato oggi scendendo da Cagliari, un Audi blu, e ti ho per salutarti perché mi sono accorto dopo, ho visto la scritta, ti ho messo le quattro frecce, accortatevi sì. Sempre da quella negra che c'era sotto, Poi cibo. Per carità, è roba di Anna e Torra. Brutto buco, come non sei altro che. Antonello mio, oro mio, che altro l'ho visto l'altro giorno. Stavo attraversando la strada vicino a casa sua, qua mettiamo vicini, gatto con gli occhi chiusi, non capisco come faccio a camminare, cazzo. Bravo, gatto. Gatto mio, mi ha tolto, forse tu, cazzo, mi è venuto da ridere. Stavo scendendo la sera secca io, che ero lì su al centro ecologico, a prendere la macchina. Sono sceso e tu stavi scendendo da casa tua, cazzo, vabbè c'era sole, forse per quello, mettiti gli occhiali, cazzo, e c'avevi gli occhi chiusi. Guarda, quando sono morto non guardo una mia, ma poi mi salutano, che lo sai, ma guardo. Gli faccio un bel regalo adesso. Non mi vuole regalare qualche signorina? Tanto mi chiede Giuseppe. Eh? Cos'è Claudio? Tanto ma così ti ci divintendi. No, ero un po'. Adesso gli faccio un bel regalo a Pompoio. Il regalo due punti di peroni. Due punti di peroni? Claudio, mi hai capito? No, io ho capito quello che ha detto Antonello, me ne metti due punti ai coglioni. Ho detto nel regalo due punti dei peroni. Ah, già si sì, è la che l'ha visto, la mazza per i vari. Hai capito, Cla? Già ti ho capito io, sì, già ti ho capito io. Però a prima parte scorso in cuffia, sento questa cosa così, mi sembrava un po' tragica. E se a vedere se già ne ho volto io, uscito alla galleria, già. Che cosa è che ne qua? Oia, oia, ragazzi, che le vicine, per carità di Dio. E quindi è toccato a te, me la ricordo io, mi ha mandato un'email oggi. A certi colori me ne ha scritto. Dite domani, ha detto Claudio, non mandare più di mail al computer. Ero a fare riunioni, cazzo, che qui che là, ma gira mi è male, no, non ha giocato, non sta fatto le riunioni. Cos'è roba per la riunione del programmatore? Allora, lui è vicepresidente, no? Quindi ci manda ogni mese, ci manda le comunicazioni. E mai tu stai di cazzo ma con le comunicazioni dici? Io intanto lo tempo viaggio è troppo, sto già pensando a domani, e mi tocca combattere con Raul Macchi. E dove ti tocca domani? Io inizio da quella Sassari, ma poi arrivo sino a Sentino, ho già. Cina Sentino, tutte le frazioni, la Corte, la Pedraia, Palmado, la Biancareto, Maccia Gultito, non sapevo manco cosa cazzo era. Mi sembrava una di questi maccioni di Ghessa, invece una frazione sopra una montagna di pastori, alta di cazzo. E mancata la luce, il rimpianto, cazzo, ci ho messo il piede, una massata di merda, di vacca, cazzo, per poco annego. Ti mai a fuori. Oi, hai fatto dei lucchi. A proposito, ma cosa hanno fatto la voli qualche condotta? Cazzo, le mani me la leva gialla che non si voleva, ma direi che sono pure a toccarla. Dove sei tu, giù a Tronco Reale? Positivo, bancale, dai. Sì, stiamo lasciando la condotta nuova lì. Già, appena pronta quella è bella, c'è molta più pressione e tutto, deve essere che la stavano provando. Sicuramente, ma infatti me l'ho immaginata, che ha fatto il rubinetto e ha detto, ma cazzo che stava a gialla? Non li vinto a tutti di veramente così, non mi guneva né varecchina già. Positivo, adesso cazzo me devo mettere un filtro in maniera cazzo da filtrarla un po' carino, questo cazzo è leva. L'ha messo Roberto Quadrato, dice che è molto buono quello da Callegan, Dice che l'acqua è proprio perfetta, ci può anche bere. Ma infatti glielo metto, anche perché intanto proprio la zinca per una sorpresa, se no tutte le volte devo staccare quella lì, mettere l'acqua dal pozzo, un giramento del coglione. Beh, un mattone che di bancari, che mi digeruva, no, di bancari, di raccolte, che mi faceva l'acqua e l'ubinetto, infatti la sera giù mi toccate, era già l'ubinico, e tu non c'è mai, poi ti virai, ma chissà, poi c'è l'ubinetto, hai fatto il negai. Non ve l'hai detto, continua a pillare tu. Ancora un altro poco e da contro di opinione. Ah, santo, va via la legge, gialli, paria, lo voglio di incontri. A posto di dietro. Ah, santo, non vale più non giocare quest'acqua. Ma che buono è se mi grava, no? Ma che mi pare a Magnazzone, ha detto, no? A Magnazzone voi, cioccolato, cazzo pallucci gialli, pare, un pipistrello. Giuseppe. sotto, Giuseppe, se parlate in due non vi capite uno con l'altro. Anto, cazzo, ma non la giù di vai. Non c'è problema, anche Giuseppe arriva. non c'è problema. Un secondo che faccio a Gianni Voltuio, a vedo che è arrivato. Gianni, tu? Già, poi io faccio per me, quasi tieni da me, arrivo da te. Arrivo per la paracaduta. Finisci già addirittura l'arrivo, dai, già va bene, già va bene. E poi ti mandiamo a dormire, dai. Beh, io anche a passare un tunnel già andiamo dove. Sarò un tunnel, andiamo dietro la cuzziacca e con tutto là. Un buon trabacco per domani. Ah, poi a parlare perché effettivamente un la banca è anche a te, a tutto la ruota, vai. Alla saluto, Claudio, a fare manovra. Attenzione, Claudio. Claudio, ciao Antonio, ciao Bonfone, ciao a tutti quanti, dai, alla prossima. Yeah. E yeah, ciao Gianni, un abbraccio alle prossime, quando si ritorna entra già siamo qua. Salutami a fratellino domani se lo vedi, dalle pugna in testa, già ci sentiamo. Chi c'è rimasto qua? Quando sei libero, lo lasciamo un pezzo di trasmissore, Alessio, nella radio. Buonasera. Anche ancora non ce l'ha fatta, ci abbiamo fatto le impresi e altre cose. Antonello, usci sempre impegnato, già andrà bene. Beh, raga, io rimetto il microfono a Falchetto, aspetta il finale per chiudere anch'io, cazzo, sono già alle 10 meno quarto, sono domani. Mi canta il cucco, avanti Falche. Aia, io vi saluto, vi auguro buona notte a tutta la ruota. E niente, tutte le migliori, tutta la male. Noi vabbè, ci sentiamo, non ci sono problemi. Passa buona notte, saluto a tutta la rottena, vai. La batteria chiudo che se no la mare manco a cannonate che mi riceta. Aia. Ehi Anto, dai, un saluto anche a te, buonanotte e ci sentiamo, ci vediamo domani. Io alle 7 aspetto che passi mio collega a prendermi, già è puntuale. Facciamo il controllo qua alle vasche di via Milano e poi scendiamo a prendere il caffè, dai. Se ci sei, ci vediamo lì. Ciao, a domani. Signori, anch'io vi saluto. Grazie della compagnia, ciao Gianni Avoltoio, ciao Giuseppe Leoncino, ciao Tore. Ciao Antonello e a tutti gli altri, un abbraccio a tutti, a domani, se no pure a me mi canta il cucco. Ciao a tutti, Antonello, prendi, se vuoi rimanere con Tore, io chiudo, se no è un casino, troppo presto mi devo alzare, dai. Avanti Antonello, ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Sì, ciao Claudio, ciao Antonio, ci sentiamo con questi tutti e due. Eccetera eccetera, avanti Giuseppe e poi Tore. Ciao, ciao, buon trabacco per domani, ci sentiamo tutte le prossime, dai. Antoni, dimmi. Ma io ecco la mano, ma sto uscendo basso. Mi sto uscendo basso adesso, perché sei in basso, però io che mi tocca parecchio. Perché con te non stavo andando su la televisione, non ho mai fatto fino adesso un aspetto del genere. Poi c'è anche molto di sotto, io mi sembra passo anche a lui, non so dove sia. Si è sempre avuto comunque Giuseppe. Beh, va bene, dai. Ma tu stavo dicendo, ma non c'è qualche porto lei, qualche giornata per farmi fare anche a me, no? Giuseppe, appena dentro a lavorare domani sera, produttore, se sei al circo già ci faccio una scappatina. Non so che ora, se per le 6, per le 5, per le 7, non lo so. Comunque, già ci vediamo lì. Capito? E poi me la sarà a casa. Sì, via, trattore. Sei già lì. Non mi conosci, ma da dove? aeroporto Thomas. No, è la Sassaria. Giuseppe Leoncino. Non dice no ai Leoncino. Non lo sento. Cappa. Stavo dicendo lì. Ho avuto un po' di impegni, capito? Infatti avevo un po' di sboccare. E poi ho un po' di concrete, ne stavamo parlando. Sono come... volevamo un apparato e poi volevamo un altro, per cosa ci dobbiamo vedere. Io sto meno scuro quando sei a Sassari, così ci vediamo e non ci sono problemi quando stai salendo, tanto che non ti affondi ce l'hai. Non fallisci, non ho problemi. Ma non parlo, c'è già pronto, quello qua. Ma tu la prendente, questo è già un po'. Ma che ci andrà bene, se non avviteramo in maniera abbastanza larga. La parola ce l'ho, gli andrà bene. Giuseppe, riprendi. Sono qua sotto a casa mia, dai. Io chiudo e ci sentiamo tutte quante alle prossime, dai. E ci vediamo, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao. E ci sono anche tu la sedia, abiti. C'è tu storico. Cos'è che hai detto, Antonio? Se abiti al centro storico. Non lo sento, no. Ho detto se tu abiti al centro storico. Ciao Luca, buonasera. Strano questo lato, non ti ho mai sentito, Luca. Sì, siamo con la macchina accesa, non so se si è accorto. E questo, quando con il segnale, diciamo c'è un volume basso, quando con il segnale che saliva, non sapevo, non sapevo chi era. Via. E tra un po' vado a prendere, quota. A prendere quota. Già va bene, già va bene. Va bene, ciao dottore. Ciao, io ex Luca. Via, chi è? Ma c'è uno scopo se non aveva il cavo il danno, non l'ho visto. faccia sbagliata, però devo abbassare. Ha fregato anche a me la prima chicca, perché quando sono andato a controllare tu non conduce, ma la cosa non te la fa. Poi ho preso un test e ho detto qui c'è qualche cosa che trava. Sotto la continuità c'era tra il PL e la prima base, diciamo. E sopra non arrivava nulla, non conduceva nulla, quindi ho detto qui c'è il rame tagliato, qualche cosa è tagliato. Lui l'ho portato sotto e invece sotto era perfetto. L'ho risaldato, l'ho risaldato. L'ho comprato sotto, altro danno è qui. Allora l'ho risaldato sopra, l'ho spacciato tutto e capo saldato la carica. Ok, allora c'ho qualche tipo di antenna così. Praticamente allora faccio il problema. Però l'ho messo a posto. Cioè praticamente l'ave spaccato. L'ho risaldato. Comunque, diciamo che non riusciva a regolare le stazionali, bro. Allora, ormai riusciva a 10 cm di tiro in più, quindi ho recuperato il tiro. Vedo, non è l'occhiata pompù. cioè, mi guardi lento. Ehi, dammi un'occhiata alla mano, dimmi, mi dici qualcosa. Se c'è qualche cosa, così guarda e faccio la domanda. Allora, sono a posto. Va bene. Allora, se cosa dico, sono 11. Sono 5, adesso io faccio 40. Sono 20, ci andiamo domani. Domani sera, va, quando rientro. Ciao Luca, ciao Tore. Ci sentiamo domani, se ci siete. Faccio un bel pisolino fino al mattino, ciao ciao.